Il bufalo intelligente. C'era una volta, in un piccolo villaggio, un contadino di nome Edgar. Viveva in una piccola casa e possedeva un piccolo pezzo di terra. Edgar aveva un bufalo chiamato Premio. Era un nome insolito, ma c'era una spiegazione. Edgar era molto povero prima di trovare il suo bufalo. Premio lavorava duramente per il suo umano. Essendo l'unico bufalo, arava l'intero campo giorno dopo giorno e aiutava Edgar con ogni sorta di lavoro. Edgar iniziò a coltivare tutti i tipi di cereali nel suo campo. Così Edgar guadagnò molto rispetto nel suo quartiere. Dato il premio che aveva ricevuto, decise di chiamare il suo amato bufalo Premio. Premio era un bufalo speciale. Era intelligente e sempre pieno di vita. Edgar sapeva che Premio era un animale libero e vivace. Spesso se ne andava in giro quando non c'era lavoro e tornava a casa la sera. Col passare del tempo, Edgar acquistò un altro bufalo. Amava molto Premio, ma si rendeva anche conto che il carico di lavoro era troppo e doveva essere suddiviso. Edgar non voleva far stancare troppo il suo animale. Un giorno, mentre stava arando il campo, Premio si sedette a metà strada e cominciò a respirare pesantemente. Oh, Premio! Edgar portò a casa entrambi i suoi bufali. Quella notte Edgar non riuscì a dormire affatto. Sapeva che era l'ora di lasciare andare Premio. Il giorno seguente portò Premio nella foresta e gli tolse il campanello dal collo. Premio scosse felicemente la testa. Premio, sei un buon bufalo. Non potrò mai ripagarti per il tuo aiuto. Non devi più lavorare. Sei libero adesso. Mi mancherai sempre, amico mio. Vai in giro ed esplora le terre. Non farmi piangere ora. Potrai tornare a casa quando vuoi. Conosci la strada. Premio era triste nel lasciare il suo umano, ma era anche felice di vedere cosa lo aspettava fuori. Camminava allegramente, godendosi la fresca brezza. Si aggirava nella foresta senza paura. Beve acqua dai torrenti e mangiò erba lungo la strada. Presto il sole cominciò a tramontare. Si stava facendo buio. Premio si guardò intorno, in cerca di un posto sicuro in cui riposare. Ed eccolo! Quella grotta è proprio vicino allo stagno. Mullala! Questo posto è enorme e anche abbastanza caldo. Perfetto per viverci. Oh cielo, sono stanco, cosa? Questo lungo vagabondare mi farà dimagrire come una giraffa. Premio iniziò così a vivere nella grotta. Beveva acqua fresca dallo stagno, pascolava nelle vicinanze e dormiva pacificamente dentro. Passarono i giorni e Premio iniziò ad amare la sua vita nella foresta. Ma essendo un bufalo domestico, Premio rimaneva un animale semplice ed innocente. Non sapeva che la foresta era abitata da molti animali e non tutti erano innocenti come lui. Mentre Premio continuava felicemente con la sua nuova vita, qualcuno lo stava tenendo d'occhio. Timmy, la volpe. Ogni giorno, mentre Premio lasciava la sua caverna per girovagare, Timmy, in punta di piedi, lo seguiva ovunque. Premio era sempre così assorto nelle sue attività quotidiane che non si era mai accorto della presenza di Timmy. Questo bufalo è piuttosto coraggioso a vagare per la foresta da solo. Beh, o è troppo coraggioso o è troppo stupido. Voglio dire, lo sai in quale caverna vive? Divertiamoci. Ehi, ciao! Sei nuovo? Vengo a pascolare ogni giorno qui. Non mi definirei nuovo. Oh, sei un piccolo animale spiritoso. Una volpe che chiama un bufalo piccolo è davvero spiritosa. Come ti permetti di prendermi in giro? Sono il re della foresta. La caverna in cui vivi è la mia caverna. Tutti gli animali obbediscono ai miei ordini qui. Se vuoi vivere, dovrai inchinarti a me. Hai ragione. Sono nuovo qui, ma questo non significa che io sia così stupido da credere a tutto quello che dici. Ascolta, volpe. So che non sei il re di questa foresta. In effetti, sono sicuro che non sai nemmeno quanto è grande questa foresta. Ti suggerisco di smettere di farmi perdere tempo. Kim mi stava ribollendo dentro, rabbrividì di rabbia. Giurò che un giorno l'avrebbe fatta pagare al bufalo. D'altra parte, Premio si rese conto che ora avrebbe dovuto essere più cauto. Quell'astuta volpe sa dove vivo, il che significa che mi tiene d'occhio. Inoltre, non ci avevo pensato prima, ma quella grotta deve appartenere a qualcuno. Cosa farò quando tornerà il legittimo proprietario di quella grotta? Dovrò stare più attento qui intorno. Quella notte la luna brillò vividamente nel cielo. Mentre Premio si sdraiava nella caverna, sentì qualcosa. Guardò attraverso una piccola buca e vide una strana ombra all'esterno. Prima pensò che la volpe fosse tornata a tormentarlo. Ma mentre la figura si avvicinava, Premio rabbrividì di paura. Era il vero proprietario della caverna, la tigre. Oh no! Ovviamente questa grotta appartiene alla tigre. Cosa faccio ora? Mi mangerà! Mentre la tigre si avvicinava, Premio non riusciva a smettere di tremare. Aspetta, aspetta, rifletti. Calmati. Posso vederla, ma lei non può vedere me. Questo è il mio vantaggio. Eccolo che arriva. Cosa c'è di sbagliato in te? Ci sentirà! Oh, giusto, scusa, ma guarda quanto è delizioso! Non ti ho detto che quello che vive qui è abbastanza grande da sfamarci tutti e due? Va bene, avevi ragione! La nostra cena per oggi è pronta! Assolutamente! Adesso fu il turno della tigre di rabbrividire di paura. Chi sono questi animali? Perché si è fermata? Sta prendendo troppo tempo e anche io sono affamato. Perché non usciamo e l'attacchiamo? Non può combattere tutti e due. Il trucco aveva funzionato. Senza pensarci due volte, la tigre saltò verso la foresta. Premio si sentiva sollevato. Ora sapeva l'importanza di mantenere la calma in ogni situazione. Il giorno dopo, mentre Timmy si aggirava nella foresta, si imbatté nella tigre. Mi hai spaventato! Spaventato? Aspetta, ti ho spaventato? Ma tu sei una tigre? Sì, sì, lo so, ma sono il grande gatto della giungla. Ma sei un pazzo se pensi che non ci siano animali più grandi e più spaventosi di me qui. Ho incontrato due di quelli la scorsa notte. Hanno preso la mia caverna. Dovrò cercare un nuovo covo. Aspetta, che cosa? Quello che vive nella tua caverna è più grande e più spaventoso di te? Ma stai scherzando? Lui è un bufalo. Cosa intendi con due? C'è solo un bufalo che vive lì dentro. Pensi che sia così pazzo da scappare da un bufalo? Ci sono due enormi esseri lì dentro. Esseri? Sì, non so davvero chi o cosa siano, Non sono entrato nella caverna. Ho solo sentito le loro voci. Stavano per attaccarmi. Carmi, sono scappato prima che lo facessero. Povera tigre, ti hanno ingannato. Non c'è nessun essere lì dentro. È un bufalo. Lo tengo d'occhio da quando ho messo piede in questa foresta. Zitta, volpe! Come osi insultarmi? Pensi che sia così stupida da scambiare un bufalo per un animale spaventoso? Posso dimostrartelo. Tu non sei la sua preda, lui è la tua preda. Facciamo una cosa, verrò con te. Entreremo in quella grotta e io ti aiuterò a catturare chiunque ci sia dentro. Voglio saldare i conti con quel buffone arrogante comunque. Ma in cambio della tua caverna, voglio che tu mi prometta che non mi attaccherai mai. Stai dicendo la verità? Ma aspetta, e se fuggissi via lasciandomi indietro? Va bene, leghiamo una corda intorno a noi stessi. Un'estremità alla tua pancia e l'altra alla mia. In questo modo potrai tirarmi indietro se proverò a correre. D'accordo? La tigre fu d'accordo. Si legarono con una corda e si avviarono verso la grotta. La volpe era felice. Aveva trovato un modo per fare due cose insieme: insegnare a premio una lezione e guadagnare la fiducia della tigre. Mentre si avvicinavano alla grotta, premio li vide arrivare. Non appena vide la volpe, capì cosa stava succedendo. Penso di essere intelligente. Ora, lasciami gestire questa cosa, ok? Entra nella grotta solo quando te lo chiederò. Sciocca volpe! Ti ho chiesto di portarmi due tigri e tu me ne porti una sola? Cosa? Non mangiamo niente dalla scorsa notte e ora vuoi farci condividere una tigre da sola? Lavori per loro? No, no, no! Questo non è vero! Ah, buona nulla! Bene, portala qui ora! No! La tigre fece un balzo per salvarsi la vita. Era così spaventato che non gli importava che Timmy fosse legato all'altro capo della corda. Oh, au, au, au, au, au! Questo fa male! Questa sarà di lezione alla volpe. Ho imparato una lezione molto importante oggi. Se non avessi mantenuto la calma, non sarei riuscito a cacciare quei due. Non importa quanto sia difficile la situazione, dobbiamo sempre stare calmi. Premio aveva ragione. Solo perché aveva mantenuto la calma in ogni situazione difficile, era riuscito a risolvere i problemi. E anche la volpe... Au, au, au, au, au, no! Aveva imparato la sua lezione.